Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock. Rock FM. Dei Faces con Rod Stewart, questa era Stay With Me ad aprire l'ultima nostra mezz'ora a disposizione che prosegue con Alive and Kicking, Simple Minds.

and roll station in the world. It's Rock FM. Alle ore 12, si gioca quindi con i minuti le ore, tra non molto Claudia con voi, saluto anche a Franz Max, doppio nome, da Firenze, buona giornata anche a te, vi lascio per qualche attimo a John Mellencamp con le note di questa Paper in Fire. So she chased after her dream with much desire. But when she got too close to her expectation, her dream burned up like paper and fire. Paper and fire, sticking up the ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyways. Who's to say the way a man should spend his day? Smoke like paper and fire. One love with no involvement. a silly life required. And the days of vanity went on forever. And he saw his days burn up like paper and fire. Paper and fire, thin of an ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyway. Used to say the way a man's a fantasy. Across the green field, and each generation says it from far. But we keep no check on our appetites. So the green fields turn to brown like paper to fire. Paper and fire, picking up the ashtray. Paper and fire, blowing out. Paper in Fire per John Mellencamp. Siamo quasi al termine, ma abbiamo un bel po'. Sì, abbiamo messo anche quelli. No, no, quello no. No, quello no. Quello non distruggerlo, Claudia. Ne ha buttati altri di CD, ma quello no. Ecco, hai fatto il tuo solito danno. E cosa viene a fare qua in onda? Mancano ancora 9 minuti e ho un sacco di compleanni del giorno. Ad esempio, 19 maggio, quindi giornata odierna, del 1949, nasce Dusty Hill. Il compleanno del giorno. Hey, this is Dusty. And Frank. And Billy. And we're ZZ Top. And you're listening right here to Rock FM. Hill, quindi dei ZZ Top, nasce quest'oggi 1949, quest'oggi nel 19 maggio del 1952 nasceva anche Joey Ramone. Il compleanno del giorno. Joe Ramon nasceva il 19 maggio del 1952 e arriviamo anche all'ultimissimo compleanno di questa giornata, ultima canzone. Claudio, me l'aspettavo, dai, è andata male, ti rifarai un'altra volta. Adesso lo sapevo che venivi col trombone a farmi spaventare, perché l'ho appena fatto io a te, quindi sì, se non diciamo doveri quando l'ho fatto, d'accordo. L'ultimo compleanno, Phil Rudd, componente degli AC/DC, nasceva il 19 maggio del 1946. Claudia, l'avete sentita, è già qua pronta, nelle prossime due ore sarà lei a intrattenervi. Io vi ringrazio, vi rimando all'appuntamento di questa sera, 20:21, con lo spazio di Hard and Heavy, e poi, naturalmente, domattina ancora qua insieme, dalle 9 in avanti. Grazie, ciao ciao! Il compleanno del giorno.